luoghi comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Allora, oggi parliamo dello sport nazionale degli italiani, caro Beppe, caro Ale. Il calcio. Non pagare le tasse. No, piano. Non è il calcio, anche perché sapete quanto sono riluttante ad affrontare questo tema, di cui non me ne frega nulla, mi potete dovremmo fare una puntata su te che odi il calcio e noi che cerchiamo di convincerti. E però. Sulle donne che non dovrebbero sapere nulla di calcio, ma in realtà probabilmente ci sono colleghe donne che sanno molto più di me, anzi senza probabilmente. Ovvio, certo. Non è non pagare le tasse, Beppe, anche perché tu sei il primo, quindi... No, io ho sempre pagato tutte le tasse. Basta con questa leggenda, questo luogo comune che io non pago le tasse. Io ho pagato tutte le tasse, ho sempre pagato le tasse, ed è un luogo comune che gli italiani non pagherebbero le tasse, non tanto la tirano fuori sta cosa. Non è neanche lamentarsi, anche se ci siamo lì vicini, perché il luogo comune di oggi è che stanno tutti sui social. Questo è quello di cui parleremo oggi, e spesso e volentieri il contenuto di quello che viene veicolato dai social è proprio il lamento degli italiani. Questo è un dato di fatto. Anche un po' di minigonne, cosce, scollature, trucchi, cibo, opinioni su film, opinioni su serie TV, musica, assoli di chitarra, cioè. Allora, per aprire questa cosa che stai dicendo tu, Ale, ho preparato un piccolo schemino rapido sui luoghi comuni dei social secondo i trentenni. Allora, cosa troviamo sui social? Se apriamo Facebook troviamo vecchi, persone vecchie. No, è così, il luogo comune è questo, cioè non ho detto che è per forza vero. Scusa, ma che social frequenti? Non ho capito. Tutti, io li frequento tutti, non faccio discriminazione nei confronti dei social. Su Facebook troviamo dei vecchi laureati all'Università della Vita che ti insultano. Poi troviamo nell'ordine mia mamma e le sue amiche che danno il buongiornissimo caffè. No, potresti anche potresti anche bloccarli, cioè non è che sei obbligato a seguirli. No, ma io in realtà mi diverto, do un'occhiata, vedo che succede, guardo delle ricette, ovviamente, guardo tantissimi gattini, che belli, quanto sono belli i gattini, eh? I gattini. Non guardi i gattini, non ci crede nessuno. Poi, Twitter lo conosco poco perché si parla di politica, e per me la politica non è proprio per tutti, insomma. Ma non solo, si parla anche di musica, arte, teatro. Sì, società. Però il luogo comune vuole che uno va su Twitter per beccare le informazioni, per fare queste cose. Sì, quello è vero, sì, probabilmente. Nacque così. Su Instagram, culi, tette, palestra, gelati, mare, sole, spiagge, viaggi, bellezza, cucina, culi, tette. Questo è un po' il luogo comune di questo social. No? Hai un feed veramente terribile. Ma ho il feed che secondo me hanno la metà degli italiani. Valeria, credo, devi perdonare Beppe, perché lui veramente usa Instagram per vedere solo culi e tette, quindi cioè questo è il dato di fatto. Oddio, non che altri maschietti come anche il sottoscritto o Alessandro, che fa finta di nulla. No, aspetta, non lo faccia, Riccardo, però. Scusami, io parlavo di culi e tette in generale, cioè nel senso anche certo. I culi dei maschi o capito, cioè nel senso che nella mia timeline spesso vado a vedere degli esercizi per la palestra, per esempio, e a volte mi trovo anche dei culi di questi maschi che si allenano facendo i glutei, facendo i burpees, che sono quei famosissimi salti che servono per indurire natiche. E questa, diciamo, è la mia timeline scrollando Instagram. TikTok invece, secondo i trentenni, ci sono quelli giovani che fanno i video che noi non capiamo, dove doppiano delle cose, cantano delle altre cose, eccetera. Sai che io sono entrato in TikTok una volta, ci sono stato 10 secondi perché volevo vedere cosa faceva Matteo Salvini, sono scappato subito perché non capivo, cioè proprio una grammatica che io non capivi concepisco. Matteo Salvini o cosa che non capivi Salvini? No, proprio la grammatica di TikTok. Però scusate ragazzi, allora Valeria Montebello, giornalista, scrittrice, ciao, benvenuta Off Topic. Ciao, grazie per l'invito. Ciao Valeria. Culi e tette, te anche tu, perché tra l'altro hai fatto un pezzo in cui dici di perché le donne sbirciano gli altri profili di altre donne. Sì, decisamente. No, io infatti ho tutto un feed di, a parte che lo fanno con dei profili finti, quindi con dei finsta, quindi una donna di solito ha almeno 4 profili Instagram. Per cui a volte anche sbaglia, no? Quindi magari vuole guardare le storie di un'altra donna, di una ex, non so, della persona con la quale sta sentendo, e sbaglia profilo, e quindi magari lo fa col suo profilo e vorrebbe morire ogni volta. Un esempio. Perché si metterebbe a spiare le ex degli altri? Perché, cioè del suo fidanzato? Perché sì, perché vuole sapere che cosa fa, vuole sapere se magari lo vede, vuole invidiarla. Principalmente. O forse vuole sapere se lei è migliore della ex del suo moroso. Vabbè, no? certo, questo vuole cerca delle prove per mandare degli screenshot alle sue amiche e dire: guarda questa che è culo orrendo che ha, per esempio. Sì, e invece io sono al top. Valeria, ma tu questa cosa l'hai fatta? Quanti profili hai? No, io osservo i comportamenti umani. Ah, ok. Quindi tu guardi, senza fare un account fake, l'ex del tuo amoroso accompagnatore del momento. No, no, no, non le guardo con il mio... No, io a volte chiedo alle mie amiche di andare a guardare con i loro Insta, cioè ancora più complessa la storia. No, cioè, ma ancora più subdola. Ancora, non è... ancora peggio. Ma delle strategie veramente da KGB. Cioè tu sei di fronte a un dilemma. Allora, io voglio guardare la ex del mio, facciamo, amoroso. Ok, vabbè, sì. O della persona con cui sto uscendo in questo periodo. Sì, voglio... ho due ma opzioni. È giusto, cioè voglio vedere con chi si è accompagnato la persona con cui mi sto sentendo. Perfetto. Cioè, ok. Aspetta, ho tre opzioni. Primo, sono onesta e sincera, ci vado col mio e vaffanculo. Mai fatto. Ok. Secondo, mi faccio un account fake. Sì. E vado a vedere di nascosto. Sì. Poi ti chiederò come fai a fare un account fake. Cioè, cosa fai? Metti un prato, ti chiami come un personaggio del Signore degli Anelli. Rubi le immagini a qualcun'altra su internet nelle immagini stock e ti fai... Guarda, un profilo. Ho una tassonomia di profili fake raccontati dalle mie amiche che sono veramente... Ecco. E adesso ci arriviamo. Terza opzione, chiedere alle amiche. Forse questa è veramente la più subdola sì, di tutte. Cioè, neanche lo sgherro del Bronx nel 1926 tirava in ballo una modalità di questo tipo. Ho la mia cricca di amiche che mi fa questi piaceri. Cioè, sono i tuoi soldatini. Bellissimo, Ale, che stai escludendo il fatto che lei possa tranquillamente non andare a vedere nulla e frequentarsi con questo tipo, senza andarlo per forza, sì, a stalkerare. Sì, questo è nel mondo a dei miniponi che abitate, cioè, voi. Cioè, non uomini. È un'ipotesi, capito? Appunto. Cioè, Beppe l'ha detto chiaramente, se ci ha fatto un pezzo vuol dire che lei l'ha fatto. Comunque c'è la sfiorata come attività. E quindi ci... Certo. E quindi l'ha studiata almeno. Quindi al terzo posto, come il peggiore degli Irishman di Robert De Niro e Al Pacino, sguinzagli gli sgherri. Quale delle tre opzioni preferisci fare? L'ultima, solo l'ultima ho fatto. Non posso crearmi un profilo Instagram fake. Già mi vergogno del mio profilo Instagram normale. Ogni volta che mi faccio un selfie mi dico, ma veramente ti stai facendo veramente un selfie? Quindi non potrei mai creare un... cioè, per il mio orgoglio personale, crearmi un profilo fake. Cioè, non è possibile nel mio universo. Comunque, scusate, sembra quasi che siano soltanto le donne che fanno queste cose, ma mi permetto di dire che anche noi maschietti non è che... Ridaglie questo maschietti, ragazzi. Ormai è un vizio. Ho capito, però, cioè, dai e ridai su Valeria, ma in realtà Beppe sicuramente avrà agito in questo modo su Instagram. Non ci sono dubbi. No, io non l'ho mai fatto. Ragazzi, non l'ho mai fatto. Ma avete dei profili fake? Davvero? No, su questo posso dirti una cosa. Allora, io di profili fake non li ho fatti, non li ho mai fatti e non li farei nel caso di andare a stalkerare delle persone che voglio conoscere o meno, delle ragazze, eccetera. Ok. Però tante volte ho avuto lo stimolo, la voglia di fare un account fake per insultare la gente senza poi doverne pagare le conseguenze. Sei un troll, cioè, dire dentro quello... tu. Sì, esatto, fare il troll. Vorrei fare un profilo fake per trollare con tutta la gioia di questo mondo. Longhi, ti prego, svelami una cosa. Quale sarebbe il tuo nickname? Cioè, tipo Napal 61. Tu ci credi che io sono anni che penso a quale nickname userò quando diventerò un troll. Ma è meraviglioso. E non riesco ancora a trovare la risposta. Guarda, ci penso durante questa puntata, poi ve lo dico. Ma tu, Ale, scusami, cioè, perché non fai questa cosa nella realtà? Cioè, perché non ti metti lì e insulti col tuo profilo, col tuo nome, ti prendi la responsabilità? È una bella domanda questa, sembra che scappo davanti appunto alle difficoltà. Il problema è che poi non voglio litigare troppo con le persone che potrei incontrare al lavoro, incontrare per strada, potrei incontrare sui social. Cioè, non ho voglia poi che il mio nome venga associato al fatto che ha una critica, e questo so che posso essere criticabile. No, beh, sei un vigliacco, c'è l'analisi di fatto che sei un vigliacco. Non è un vigliacco, non sono d'accordo. Valeria, è un artista, piano, hai bisogno piano di uno pseudonimo per fare qualcosa di veramente bello, cioè insultare le persone. Cioè, non lo bravo, fai sì, ma poi non è, non sarebbe, attenzione, non sarebbe un insulto gratuito. Grazie, Valeria, che prego, mi capisci. Non sarebbe un insulto gratuito, sarebbe più, come dire, una rottura di un ordine precostituito di linguaggio, ok? E non sempre andrei a insultare, andrei un po' a rompere le palle, tipo la suocera un po' bisbetica che te la butta lì e ti dà fastidio, però un po' sarebbe anche per migliorare le persone. Ogni tanto farei anche un complimento, è questo che spiazzerebbe. Cioè, fai che su 8 volte che commento e lo critico, gli dico, ma senti, ma sto libro qua è sempre lo stesso che scrivi, ormai fai i libri copia e incolla, ok? al nono commento gli dico una cosa un po' più, come dire, morbida, una carezza, così. Non è che tu fai questa cosa perché hai paura che un domani venga fuori. Faccio un esempio: si diceva, no, tantissimo tempo fa, verba volant scripta manent, no? Se tu dici una cosa, sì, a un certo punto il tuo terrore è che magari tra 2 anni uno ti dirà: ma tu sei quello stesso che aveva detto questa cazzata? Capito. Perché i social hanno fatto un po' anche questo, capito? Cioè, che è un po' il bello dei supereroi. Cioè, Batman può scorrazzare di notte, fare il cazzo che gli pare, menare a più non posso, lui non uccide mai perché è la sua regola. Però insomma, sì, però salva meno anche le persone. Adesso non è che tu però mi sembra che vuoi entrare un po' che... a gamba tesa su delle persone che magari dicono la propria opinione sui social. Guarda, posso usare una parola in maniera del tutto inopportuna? Vorrei fare del situazionismo sui social e non lo voglio fare a mio nome, lo voglio fare in maniera, come dire, un po' anonima. Però adesso penserò all'account, come chiamarmi, però non lo dirò, perché se lo dico poi mi rompo. Però fanno bene i troll alla società, secondo me. Perché? Beh, perché comunque ti ricordano che sei fatto, che fai cose male, sei sbagliato, che non... che in realtà sei brutto, che non capisci niente. Cioè, i politici senza troll non avrebbero senso di esistere sui social. Il problema, Valeria, è quando i politici stessi diventano troll. Certo. Vabbè, quello fanno con la loro faccia, però quindi non è che sono tanto troll. Quello è anche vero, soprattutto perché poi governano e stanno nella stanza dei bottoni. È quello in realtà il problema successivo. Poi tutta questa rabbia sociale la sfogano sui social, non mettono più il tritolo sotto le macchine, quindi mi sembra già una cosa positiva. E anche no, questo mi apre una bella scatolina che però non aprirei in questa puntata. No. Andiamo avanti. Mi sveglio e ti sgamo che già sei sui social network, dal letto. Il pollice su e giù sullo schermo, che scherno. Invece che su e giù sul mio sterno, esterno. Che sono 3 giorni che non espello. Ammetti che è un problema, non riesci più a farne senza. So bene cosa significa avere una dipendenza. Tu vivi sempre connessa, come una disconnessa. Chi ti conosce meglio, il tuo motore di ricerca. Li hai trovato. Allora, ci sono persone che ogni tanto decidono di fare la pulizia dell'armadio. Quindi quando si fanno i cambi di stagione lo fanno sui social. Quindi si prendono i propri follower su Instagram, su Facebook, su Twitter, e si inizia a dire questo no, questo no, questo no, e si defollowa. Ok, tecnicamente si dice così. Intanto, Valeria, se tu lo fai e ogni quanto lo fai? Defollowo? Sì. Allora, io vi confesso questa cosa, è una confessione. Fino a un mese fa avevo 99, cioè seguivo 99 persone. Non di più, cioè un problema autistico probabilmente, però io non riuscivo a seguire 100 persone, cioè proprio non, quel numero, il 100 non lo riuscivo a superare, non ce la facevo. E quindi ogni volta che volevo seguire qualcuno di nuovo, cancellavo quelcuno di vecchio. Per non quindi superare quella soglia psicologica. Era terribile, sì, non volevo, sì, però dovevo guardare fra tutti i miei, insomma, le persone che seguivo e decidere quale eliminare ogni volta. Chi sono i primi che hai eliminato? Chi erano? Su che base scegli? No, non lo so, gente che non, con la quale non interagivo molto, persone che postavano cose che non mi interessavano, però piano piano si arriva alla cerchia degli amici, no? Quindi... A un certo punto ho dovuto eliminare una mia amica del liceo e si è arrabbiata tantissimo, per esempio. Cioè, te l'ha scritto e te l'ha detto? Però poi le ho spiegato. Ma certo, come ha fatto a accorgersene? Perché ci sono delle app. No, dai. Sì. Cioè, io avevo letto che c'erano, quando erano sputate fuori queste app che ti dicevano chi ti defollow, sì, ha detto, vabbè, ma è solo un malato di me. Confesso, Ale, che ce l'ho anch'io. Ma non è vero che ce l'ho. Anche tu. No, ce l'ho, si chiama... No, ce l'ho. Adesso non posso perché sto registrando, ma ti manderò uno screen, ce l'ho, e quando uno mi defollow, no, guardo chi è, sì, mi fa ridere. Valeria, però la domanda che volevo farti, perché ci hanno mandato dei contributi audio dei nostri ascoltatori, in particolare una ragazza ci ha detto che lei si è tolta da quasi tutti i social tranne Twitter. Tu ti sei mai tolta da un social? Cioè, a un certo punto hai abbandonato il campo? Io non sono abbastanza risoluta, no, volevo farlo, molte volte mi è passato per la testa, ho detto cavolo basta, no. Però non l'ho mai fatto, anche Twitter non lo uso per niente perché sono tutti cattivi su Twitter e quindi... Altro che cinguettio, no? Sì, non li voglio vedere e quindi non lo uso, però ce l'ho, okay. Qualche volta ci entro e ogni volta lo maledico, però non so, forse sono masochista. Sentiamo la nostra amica ascoltatrice che cosa ci dice. Quando i social sono diventati di moda, credo di essermi iscritta praticamente a tutti i social. Li avevo praticamente tutti, anche Snapchat che non usavo molto. Vabbè, Facebook, Twitter all'inizio, poi anche Instagram. Ma credo di averli sempre usati un po' da cessa, nel senso che non erano mai contenuti eclatanti. Più che altro, vabbè, con Facebook erano... conversazioni, quello l'ho lasciato per primo in realtà tipo 10 anni fa. Usavo quello del lavoro per andare a vedere cosa facevano gli altri, quindi era questo più o meno il motivo che mi ha spinto a toglierli tutti, perché in realtà ero una vera cessa, andavo a sbirciare le cose oppure postavo cose solo per che qualcuno si accorgesse di quella determinata cosa, proprio da vera cessa. Quale sono? È un'autotutela, credo, quella di essermi tolta da tutti i social. Non mi mancano per niente. Io la invidio, io anche. Sì, io la invidio. Cioè, secondo voi dovremmo fare un detox dai social? Perché di fatto stiamo capendo che stiamo sui social per spiare, per commentare in maniera anche abbastanza cattiva le cose degli altri, oppure per prendere a modello dei modelli che poi per noi sono inarrivabili. Penso a Chiara Ferragni. Per invidiare cose assurde. Esatto, poi. Esatto. Oppure, ragazzi, potremmo vivere tutto in maniera tranquilla, serena, come se fosse uno svago, senza stare costantemente a dirci che ne so, che se uno posta è infelice, che se uno... Cioè, vabbè, sì. Cioè, io posso, cioè, allora, posso sì. Postare la mia infelicità, posso postare il mio disagio senza che uno psicologo mi venga a dire che non devo fare. Guarda, Beppe, se ti metti disagiato con lo smalto nero e scrivi una poesia triste, vedrai che i follower arrivano a sei fiocco. Rimasto al 2000. Allora, giuro che oggi lo faccio, oggi lo faccio sul social di gruppo. Però una cosa che stavo pensando mentre chiacchieravamo è che dobbiamo anche un po' levarci dalla cattedra. Cioè, di solito si guarda il social come se fosse, come dire, come alla fine 800 vedevano arrivare i treni, a metà 800 vedevano arrivare i treni, dicevano oddio, arriva il mostro. No, ragazzi, sono un mezzo, usiamoli, punto. Cioè, tu dici che è come parlare di elettricità, di fuoco, di ruota. Esatto, è corrente elettrica, è tecnologia, si usa e basta. Può essere usata per fare una riflessione su come ci comportiamo, però in buona sostanza io tenderei ad avere un approccio un po' più laico sull'argomento social network. Cioè, ognuno fa un po' quello che gli pare, finita lì. Però... Per fortuna c'è un progressista fra di noi. Grazie. Però, nelle mie momenti di autocritica mi dico, sì, però io sono veramente intossicato dall'utilizzo dello smartphone. Bravo. Cioè, il punto io lo metterei più che altro sulle ore che perdo nello stare con l'occhio su un oggetto di plastica grande. Alessandro, su questo volevo dirti che a parte io sono impaurito da me stesso, perché la mattina la prima cosa che faccio da un paio di anni a questa parte è spegnere la sveglia che è sul cellulare e contestualmente andare a guardare Instagram e Facebook, quindi la prima cosa che faccio la mattina. Anch'io. Devastante. Anch'io. Non ne do un dato morale, è semplicemente una cosa che mi fa paura stesso, però non giudico gli altri, Valeria, ci mancherebbe altro. L'altra cosa che volevo dire è che è proprio un luogo comune che noi ci stiamo tanto sui social, perché in realtà l'italiano in media, un dato che vi volevo regalare quest'oggi, sta sui social 1 ora e 50 al giorno, con una media di 6 ore al giorno di navigazione su internet. La media mondiale è molto più alta sui social, si parla di quasi 3 ore, quindi l'italiano mediamente sta, rispetto ai suoi colleghi in giro per il mondo, molto meno sui social. Sì, però scusatemi, cioè 2 ore sono tantissime a mio avviso, cioè uno che passa, cioè scusate, 24 ore in una giornata, metti che 8 le dormi, cioè 2 ore sono tantissime nell'arco di una giornata per stare su un social a guardare cosa? A informarti di che? A scrollare in continuazione. Brava, io l'ho fatta, sì, io ammetto che le ho fatte delle giornate in cui mi facevo veramente la sera dopo cena, mi distruggevo di Twitter, Instagram, o di Facebook. Non ci si distrugge più di alcol, ci si distrugge di Twitter. Perché c'è sempre una morale che ci dice dietro nel nostro cervello da qualche parte, non so dove, Valeria correggimi se sbaglio, non ne do un dato di giudizio, però è questa cosa che dice Alessandro, è perché vediamo sempre lo stare sui social come qualcosa di come un tempo perso. In realtà, secondo me, fa parte della dieta mediatica, fa parte dell'informarsi, perché poi sui social si acquistano prodotti, ci si informa, ci si svaga, si spia, come abbiamo detto. Ci si lavora. Ci si lavora, si sta in relazione anche. Ti volevo chiedere questa cosa, Valeria. Noi viviamo un momento molto particolare perché per la prima volta nella storia del mondo un papa è sbarcato sui social. Io non sono particolarmente credente, anzi tendenzialmente non me ne frega assolutamente nulla, ognuno è libero di fare quello che vuole, però ho sempre pensato che questa fosse una grande rivoluzione. Ma visto che ci sono praticamente tutti sui social, anche il papa ha senso che ci sia, cioè non che magari faccia dei video mentre balla su TikTok, ma su un social. No, quello no, però sarebbe bello. No, quello sarebbe veramente il... Forse fra una ventina d'anni, forse anche meno, troveremo il pontefice a farsi un balletto su TikTok. Scusate, ma il Dalai Lama ce l'ha? Sì, ce li ha. Scrive tutte frasi motivational, ovviamente, insomma, sta nel personaggio. Sbaglio, sì. O il Dalai Lama ce l'aveva prima del Papa? Ce l'aveva prima del Papa, arrivano sempre prima. Before, come dicono da qualche parte, before it was cool. Abbiamo immaginato un universo distopico, Valeria, in cui ci svegliamo e non esiste più internet, cioè la rete è caduta dappertutto, non c'è più la possibilità di connettersi. Abbiamo lanciato questa provocazione ai nostri ascoltatori e Maurizio ci ha mandato questa suggestione. Penso che se domani dovessi svegliarmi senza internet e senza social, sicuramente la prima cosa che farei è andare su Facebook e scriverlo a tutti, per poi accorgermi che niente, non lo posso far sapere a nessuno. Poi penso che là mi sentirei meglio, perché sicuramente andando in giro vedrei la gente molto più rilassata, non parlano tutti della stessa questione, sono tutti stranamente più rilassati perché su internet c'è la polemica, c'è il male, i social sono un coacervo di stronzi e soprattutto sarebbe un problema perché la gente non potrebbe cercare su internet cosa vuol dire coacervo. Io sono estasiata da questo vocale. Scusami, Valeria, tu cerchi quando c'è qualcuno nel gruppo che non sa qualcosa, cioè cercate subito su Google quella parola, certo, o lasciate correre? Assolutamente sì. Certo, sì, ma allora lo facciamo anche noi, dai. Diciamo però che internet e i social sono due cose diverse, cioè internet va bene, cioè non vorrei mai tornare in un mondo pre-internet in cui dovevi aspettare lo spillo della persona sul telefono, cioè no. Però i social sono la perversione di internet, diciamolo. Cioè, una cosa, io sono a favore dell'accesso al sapere, mi va bene. Cioè, mi va bene che non torniamo ad andare in biblioteca, oppure... Cioè, sì, che uno, se vuole cercare sintomi della sifilide, non va dal medico, ma li cerca. No, ricordiamo che bisogna andare comunque dal medico, scusa Valeria, perché... Sì, infatti, cioè, sì, vabbè, se si ha la sifilide, se, amici, sì, ascoltatori... Sì, però io parlo così, leggo sifilide mentre leggo Nietzsche, voglio sapere quali sono i sintomi, certo, della sifilide, certo, cerco Google, lo cerco su Google, non è che io sto male e lo cerco su Google. Però la condivisione delle proprie opinioni non dovrebbe essere democratica. Un filtro, dici, una mediazione, anche perché mi viene in mente una frase che diceva Andrea, sì, Camilleri sui social, molto divertente, in una conversazione con Tullio De Mauro, diceva i social sono un po' come le cene tra parenti, nel senso che una volta, prima dell'utilizzo di internet in maniera così massiccia, c'era sempre lo zio scemo che diceva il complotto, la puttanata, la storiella a cui non credeva nessuno e rimaneva al tavolo tra i parenti e si prendeva in giro. Adesso lo zio scemo, sanno tutti che è scemo, perché lo scrive tendenzialmente sui social, quindi sono amplificatori. Su questo probabilmente hai ragione, penso che sia impraticabile come cosa quello del mediare o comunque filtrare la comunicazione sui social. Ci vorrebbe un filtro, puoi dire solamente, puoi spostare tre opinioni al giorno e basta. Questo mi piace, fine. Questo mi piace, una patente per i social, io sono molto affezionata a questa cosa. Voglio aggiungere una cosa, queste tre opinioni al giorno che possiamo postare, le possiamo scegliere, cioè possiamo anche postare cose cattive, cioè non per forza cose... Ah, certo. Certo, ok. E invece, scusami, mettere un tempo di scelta? Cioè tipo, non so, hai un'ora per pensarci prima di postare, così tu ti accorgi in quell'ora se quella frase anche fa schifo, la puoi cancellare. Io ad esempio su 10 tweet che scrivo ne cancello 8, tipo meno male per il mondo, perché ovviamente non sono particolarmente, sì, un genio. Anche questa cosa di cancellare tutto quello che metti, molte delle cose che mettiamo, è interessante. Metti una story, dopo un po' non ti convince. No, attenzione, no, mi hai frainteso. Scrivo il tweet, sto per pubblicarlo, lo cancello. Ah, lo ok, perdere. Prima di pubblicarlo. Però io ho cancellato delle cose, hai ragione, Valeria. A me è successo. Cioè, ho postato una roba, poi dopo un quarto d'ora ho detto: no, questa roba la devo togliere assolutamente. Perché, ragazzi, voi avete paura dell'eredità che lasciate sui vostri social. Nel senso che prima o poi, come si diceva prima, qualcuno tornerà indietro a guardare cosa hai postato e dirà. Ma metti che un alieno a 20.000 anni luce, o quello che è, capta solo il segnale del mio tweet. Ma tipo, può mai essere vero che becca quello sbagliato, sicuro lo becca, quindi. Siamo arrivati alla fine della puntata di Off Topic. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo registrando ovviamente ognuno a casa propria per l'emergenza che stiamo vivendo in questo periodo specifico e tra l'altro che ci ha amplificato l'utilizzo dei social in maniera esponenziale. Volevo chiederti in uscita, i miei genitori stanno scoprendo i social ora, soprattutto WhatsApp, e fanno delle telefonate bellissime in cui inquadrano sostanzialmente la calotta cranica, cioè io non vedo la faccia dei miei da circa 2 mesi. Staccagli l'abbonamento, Ricky, staccagli l'abbonamento internet. Sì, però dopo staccano a me il finanziamento che arriva ogni 6 mesi. No, bravo, diciamo. riattacca. Bravo, esatto. Vabbè, Valeri, fagli un tutorial su come mettere bene il telefono. Ma tu stai scherzando? Cioè, vuoi che esploda l'internet con un tutorial? Ho cercato di spiegare a mio papà come fare l'accesso a Facebook e ho visto un fungo atomico provenire da Verona, figurati. No, volevo capire, in conclusione, i tuoi genitori e il rapporto con i social come sono e se tu sei ingaggiata ogni tanto a spiegare come funziona WhatsApp. Guarda, mia madre purtroppo li usa tantissimo, quindi è posta le foto di quando io ero piccola, tutte quante sono, tutti i suoi post sono pubblici. Cioè ho detto, mamma, per favore metti solo amici, così almeno il mondo se ti cerca. Sì, ciao. Non vede. No, però io una volta ho preso il suo telefono e l'ho fatto direttamente io, quindi addirittura, adesso se sentirà questa cosa mi odierà, però... Molti dei suoi post ho messo solo io, quindi li vede solo. Li vedi solo tu, ma sei diabolica. No. E quindi nessuno le mette like perché sono impostati con la privacy, capito? Poverina. E lei non lo sa, adesso lo saprà e mi odierà, però comunque. Scusa, ma ti segue e poi ti dice: ma scusa, ma ho visto che eri con quegli amici lì, ma cosa avete fatto? Sì, ovviamente sì, ma non solo mamma, zie, quindi. Là c'è la possibilità di bloccarli o comunque di mettere la privacy, non so, mia madre, le mie zie, tutto il ramo della mia famiglia non possono vedere questi post. Ma è meraviglioso, meraviglioso. Però c'è l'esclusione del pubblico, io ho sperimentato soprattutto questo, il mettere... privati post di mia madre, cioè questo, cioè, è stata praticamente fare il contrario di quello che di solito fanno i genitori vietano i figli stanno iniziando a vietare i genitori. Sì. Cioè, non puoi postare questa foto con una parrucca, mamma, non lo puoi fare, cioè, quindi... Va bene, grazie mille Valeria di essere stata con noi e grazie a voi. Alessandro, ricordiamo i nostri contatti se per caso qualcuno vuole avere consigli su come bloccare i social ai genitori, e noi possiamo ovviamente essere forieri di queste informazioni. Allora, innanzitutto potete scriverci o mandarci un WhatsApp audio al 340-8303-758. Dopodiché abbiamo parlato di social, ci trovate su Instagram come offtopic24, su Facebook come offtopic-radio24, ci trovate anche su Telegram, c'è un gruppo di discussione di offtopic che si chiama offtopic-radio24, abbiamo aperto un canale Twitch da poco, stiamo facendo delle live 4 volte a settimana, commentiamo un po' le notizie del giorno e quindi seguiteci e ci vedete anche lì in faccia. Dopodiché, come dire, last but not least, i nostri podcast che trovate su tutte le piattaforme disponibili, che sono iTunes, Google Podcast, Spotify, eccetera. Se non ci avete capito nulla, andate su Google, digitate questi nomi, non ci trovate su TikTok, su questo non ci sono dubbi. E ricordatevi che, come diceva Jules Renard, a punirci della pigrizia non c'è solo il nostro insuccesso, ma anche il successo degli altri. Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.